c'è qualcuno? Sezione 10? C'è qualcuno su 10? Sezione 10? Chi sei che parla? Ti sento nel fondo, chi sei avanti? Beh, non ti capisco quello che dici, se mi ascolti non ti capisco. Sì, adesso ci sono. Se lei alle 9 più 50 radio, perfetta. Allora, 9 più 50 e sono sganciato. Allora, guarda, perché volevo vedere se cambia la radio. Così sono sganciato, ok? E così è agganciato, Roberto. Cambia qualcosa come segnale e la radio rimane sempre buona. Allora, il segnale aumenta e aumenta anche la radio, più forte. Stranamente c'è la radio più forte. Addirittura, aspetta. Aumenta il segnale, il mio? Sì, 960, se ti dico di quanti dBt aumenta il segnale, quando non il segnale, di quanti dBt aumenta la modulazione, voglio vedere, stranamente, come attacchi aumenta anche l'intensità della radio. Questo lineare lo fa così, lo fa. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedi un po' se va bene così. Prova a attaccare un attimo. Così invece è staccato. Così è staccato, vedi un po'. Allora, stranamente guadagni 2 dB di coso, di intensità, sono tanti 2 dB di radio. Quando attacchi aumenta la radio di 2 dB, è tantissimo. Va bene, no? Ottimo per la truppa sto baracchino. Guarda, ti posso dire che migliora pure la radio, là. Attaccato è più forte e migliora pure la radio. Bene, bene, bene. Ottimo per la truppa, dai. Questi lineari non smentiscono mai. Sì, deve essere qualche canale alfa, boh, lo devo dire a Gianni a vedere se c'è qualche canale alfa, non lo so, sicuramente è qualche canale alfa. Comunque domani poi compro lo spray per contatti e pulisco bene il commutatore perché è un po' duretto, dai. Adesso claro, attacco l'altro, mi mettiti sul 10, cioè, vabbè, rimane sul 10 e metto quell'Intec sul 10 un attimino, mi dici come va. Ehi, prova. Ciao, Dio. Ehi, a fa. Ciao, e chi ha lottato questo microfono? È matta. La sua è stata arrivata, vero? Eh sì, fra. Io sto usando un Polmar 7000 base vintage con l'MB più 5, come ti piace la modulazione? Gamma, no, tu la radio è sempre la stessa, sempre più o meno la stessa, il segnale 7 sta uscendo bene però quella radio, per essere, qual è quella che hai ritirato? Sì, quello che ho ritirato. Adesso ho attaccato il 747, come va? Meglio di segnale? Mi segna 9.5. Ok, 9.5, va bene. E la radio è rimasta invariata, no? Ha aumentato leggermente. Ho aumentato anche la radio? Va bene, è ottimo, vai. Si può tranquillamente usare questo baracchino, la grande. Ciao, guarda un po'. Sto usando quello lì, quello che ho ritirato stamattina, il Polmar l'X7000, capito? È un vintage base, poi ti mando la foto, è simile a quello che c'hai tu, è una cosa del genere, degli anni 70. Vieni avanti, Robè, io ti ascolto male di radio, Robè, c'è anche Franco, puoi chiedere a lui. Vabbè, questo è un Intec fatto alla base B3104 con un microfono amplificato MC33B. Come sta uscendo il radio? Basso, alto, distorto? Ma la radio è buona, come comprensibile al 100%, però che la sento un po' cupa. Vabbè, è un altro tipo di radio rispetto al solito. Comunque non è bassa come radio, perché posso sollevare questa. Bassa non è bassa, l'intensità c'è, te l'ha detto anche Franco, però è cupa. Cupparo, beh, non è chiara. Vabbè, purtroppo questo è un baracchinetto che non vale niente, sicuramente immagino. Ok, parlate delle funzioni, per questo era la moto che non lo facevo funzionare, non so nemmeno se ho omologato, penso di sì comunque, perché questo c'ha 40 canali, qui c'ha Roger Beep, Lecco, MFM, diciamo, non è brutto, dice che c'era uno uguale Capri, uguale identico a questo. Sì, gliel'ho dato io, quello nero stai usando tu. Quello nero, sì, che sembra un po' leggermente inclinato il frontalino, che c'ha la toppa davanti davanti, non è brutto, dai, c'ha discreto, dai, esteticamente non è brutto. No, gliel'ho dato io quello a Capri insieme a tutti gli altri, sì, ce l'ha, gliel'ho dato io. Da lontano. Luca, come le ascolti tu? Un po' barato, sì, vabbè. Vabbè, dai, è un baracchinetto da 13. E tu, Franco, mi ascolti di là, che vai un po' cupo, il segnale è molto basso, Il segnale, sì, è molto basso, sì, 3 modulati a 4. Addirittura, a te, Luca, quanto sono? Fai. Prova radio, 1, 2, 3, prova a canale 10. 7. Va bene, adesso questa l'ho fatta funzionare, poi ne provo un'altra. Un paio, la vediamo un po'. Ok, proseguite, vi richiamo dopo. Sì, però roba è quella più avanti di questa. Questa esce molto meglio, però. Questa è uscita negli anni 70, quella mi sembra negli anni 80, 85, 88, poi se non mi ricordo. E più avanti, questa c'ha solo la M, non c'ha né FM né niente. Quella è molto più avanti, questo è un 23 canali, anzi 22 più 23 alfa mi sembra. Luca, come mi ascolti? Il segnale è salito, da te, guarda. Sì, 9 spaccato, sì, era di 5, bella. KK, 9 spaccato, quindi così è 9, aspetta, E così quanto è? 7? 5. Sì, viaggia allora. Vabbè, 7, 4, 7, tanto sono me lo ordino anche io. Ma poi ti aumenta anche la radio, secondo il baracchino che ti aumenta anche la radio, vedi? Va bene. Ottimo per la truppa. KK. Ok, va bene, dai. Ok, avanti Franco, riprendi. Ascolta, perché mi sto provando, mi sto mettendo a posto un po' di microfono, che non funzionava neanche questo, non funzionava, il DM1000. Com'è adesso il DM1000? Sì, molto meglio, fra. Molto meglio stai andando, alla grande. Capo. Allora, se sta uscendo bene, lo lascio così, lo lascio, non lo tocco più. Perché ero tutto registrato, lo stavo uscendo. Uscivo a colpi stamattina. Ehi, ho registrato il break, aspetta, sto guardando una cosa. Ok, avanti il break. Ascolta, metti il tono a zero, un attimo, vogliamo vedere una cosa, metti il tono a zero. Prova a parlare, devi abbassare ancora il microfono, adesso ti ascolto bene. No, lascialo così, che sennò è troppo forte. I toni lasciali stare a zero, non servono a niente. E l'amplificazione a quanto l'hai messa? 4. Che cosa? Il tono a 1 l'hai messa. Ma il microfono abbassa il microfono, sì, è troppo alto, mettilo a 5. Prova a metterlo a 4, a vedere. E va bene anche a 4, tra il 4 e il 5 tienilo. Non lo so levare di più perché è un bel forte la radio. Te l'avevo detto, esce un bel bene con quel baracchino. E non lo senti, sto andando col Polmar e l'MB più 5, circa 50 watt. Va bene. Va benissimo alla grande. Quello già segna bene. Ehi, questo è un Alan 48, come mi ascoltate? E un'altra gubba è dall'altra. Meglio esce? È più forte questa dell'altro? Sì, meglio roba. Ma più pulita cos'è come modulazione? Bella, pulita, più forte dell'altra, la cupa. Vabbè, quel microfono non serve a nulla, devo provare altre cose, dai. Comunque questo è sempre quel microfono famoso tuo, Luca, con la stessa batteria del 2005, c'ha 15 anni, M93, metà di volume del microfono. Ultima, bella. Comunque ho omologato quell'Inter, che quello nero, Claudio, lo sai, sta guardando dietro, c'è scritto omologazione, eccetera, eccetera. Sì, ma non è norma c'è quello, è omologato, sì, è un vintage, vecchia omologazione vintage, anche questo, vecchia omologazione vintage, ma non è norma c'è. Vabbè, claro, non esistevano ancora le norme CE, cazzo, l'importante è che ci avevano l'omologazione l'apparato, poi dei nuovi sono tutti norme CE, la CE ancora non esisteva nei baracchini norme CE, per cui l'importante è che ci sia l'omologazione. Non è valida, hai visto la Natalino, è successo, a te c'era una 48 omologata, c'era l'omologazione dietro, non c'era scritto c'è, li hanno portato via. Sono dei pazzi, sono. Boh, io provo a informarmi, mi sembra una cosa strana, l'omologazione italiana non è valida lo stesso, le norme c'è, sono uscite negli anni successivi, non esistevano ancora quando c'erano questi baracchini, buh, vabbè, ok, aspetta, ne provo anche un altro, continuate, ne provo un altro il baracchino. Sì, ma l'adeguamento è stato fatto nel 2018, mi pare, o 2019, quindi la normativa è cambiata, e perciò devono essere tutti a norma c'è le radio, capito? Tranne quelle amatoriali. Avanti Franco, riprendi. Sì, va bene, fra. Adesso ti mando la foto di questa, nuova nuova, una bellissima radio questa, molto molto molto molto bella. Gli ho abbinato MB+5 stamattina, una bella pulita, lucida, bella, nuova nuova. Adesso devo lunedì le sfruzzo un po' di commutatore nei pomelli all'interno, un po' di manutenzione interna, dai. Adesso no, non ce l'ho lo spray, lo devo comprare domani. Va bene, va bene. Avanti Luca, riprendi. Ah Polio, se c'è il VD40 metti quello. E quello, ma non ne ho più, l'ho finito lui. Domani intanto devo andare a comprare due fusibili per allineare quello grosso, che c'ho anche un B300. Un B300P, lo voglio provare qua, però ci mancano i fusibili, devo comprare i fusibili domani, che sono quelli piccoli da 25, io ho quelli grandi da 30, sono più lunghi, non ci stanno. E così compro anche lo spray, capito? E faccio un po' di manutenzione a questa radio, dai. Comunque sono soddisfattissimo, per essere una radio degli anni 70 esce veramente bene. La grande, manda foto. E adesso ti mando la foto avanti, Claudio, riprendi. Ma questa com'è? Boh, un po' così mi sembra. Addirittura questo ci va benissimo, questa baracchi, questo è il faccia e col tunnel. Vabbè, un po' di tempo fermo, ma brutta rispetto all'altra, più brutta rispetto alla 48. È più bassa mi sembra, no lui? Sì, comunque è molto più bassa. Ma qua sono al minimo, guarda un po' adesso, sto alzando, non sono neanche a metà. Ora, mi sentite? Io. Ma adesso l'ho portato su, com'è la modulazione? È più alta, meglio di prima, però quella là presso il microfono normale andava molto bene. Franco, tu che sei lontano, dimmi. Adesso l'ho portato proprio nella metà, guarda un po'. No, sta gracchiando. Aspetta, la passo un po', oh, vabbè, ci sarà anche la batteria a vricchia, qua questo baracchino c'è da un bel. Questa addirittura è più bassa di quello là, vabbè, quello era, forse quello c'è la batteria un po' più potente. Questo è sempre la batteria a vricchia, però magari si è scaricata. Se può darsi si sia scaricata, ma comunque già va bene. Luca, come ascolti tu che sono più lontano? Oh, capri ci sei? Più basso, guarda un po', sollevo ancora, 1, 2, 3 provarati. E adesso ho cambiato. Più bassa la voce, cavolo, sollevate e mi ascolti più basso. Strano. Allora aspetta, probabilmente la batteria la rimetto basso. Guarda un po' adesso. 1, 2, 3 prova radio, canale 10, apparecchio faccia 81-93. Va bene, ok, chi c'è qua su questo canale? C'era Franco California. Franco ci sei ancora? Franco California, Franco da Sorso. Ah, Franco da Sorso, lo sentivo bassino col baracchino, non riuscivo a sentirlo bene. Ok, mi senti ancora Franco con questo baracchino? Sì, questo ha migliorato a 100%. Ok, dai, ho fatto girare un pochettino, bisogna farle andare ogni tanto queste radio, questa era ferma da anni. Questo è Claudio, quello mi avevi fatto prendere tu nel 2004, te lo ricordi? Nel 2005 forse. 110 euro, pace, stazione base, AM e SSB. È bella anche quella, bella, bella, bella. Sì, sì, sì. Sì, sono belle radio e... Vintage, dai, almeno abbiamo un qualche ricordo, io questa ce l'ho avuta, che ero ragazzino, questa, il Perception, l'Inuite, il Zodiac, e io ho avuto di questa. Ne ho avuto di questa, questa è bellina, è nera, bella, tacromata, fa il suo lavoro, dai, con una spinta appena appena già viaggia. Bella Claudio, bella. Bella, no, fra, tutta in ferro, bella, è nuova nuova. Ehi, mi ha ricordato quando c'avevo un faccio 2030, c'era lo stesso cambio canale. Sì, uguale, uguale. E l'ho pulito tutta la ghiera, l'ho smontata, tutti i pomelli, e nuova nuova, bella, sì, sono contento. Almeno c'ho un baracchino per fare due chiacchiere, poi con 747 è come che stai usando il K, non c'è un banuda. Avanti Cra, non c'è bisogno, lasciatelo così, tra il 4 e il 5, uscite bene tutte e due. Anzi lui è anche troppo forte così, perché si mette a gridare, capito? Perché lasciare così, guarda, va più che bene. Avanti, Lucariello. Non c'è, fate. Domani metto i fusibili al B300, fra, e così lo provo. Così lo provo e vedo se va meglio di questo, dai, perché c'ha più potenza quello là, capito? Però questo già lo faccio il lavoro, dai. Da 7 a 9,5 mi hai detto passa. Via. E allora andare a voglia. A voglia, come dice qualcuno. Però domani voglio provare il B300. Lo collego e vediamo un po' come va. Sì. Perché io come ti sto arrivando lì a te adesso? Assieme a Bongo e Bicitti. Prova, fra. Cappa, via, vedere com'è adesso. Uguale a me, sì, più o meno. Da 9 con picchi positivi a 9,5 qua con questa radio. Con questo vintage. E ti dico che sia uguale a 4,40, è anche preciso questo strumento. Cappa. Vabbè, sono un cravatta adesso, sto usando il Connex, sto usando. Però sempre 3 watt. Questo è l'altro, vai, quello in touch. Sì, va bene, va bene. Quando attacchi vai da una, a 9 con picchi a 9,5 e quando sei staccato sei a 7 con picchi a 8. Adesso sono staccato, quanto è? Vieni a vedere. Adesso sì, da 9 a 9,5 vai. Oh, aspetta, 9,95. Ok, adesso è attaccato, lo vedi? Guarda a vedere. Che stava sei 9 desi. Dai, andendo allora. Non dico che andendi. No, pensavo che eri già attaccato. Come si viaggia di più dell'altro allora? Ma cavolo, sempre lo stesso apparato. C'è una portante a Santiago 7. Cosa hai detto, Robert? Sempre lo stesso apparato di prima. E quale, questo? Quello che stavi usando, il Polmar, quello lì. E questo è sempre il Polmar, Robert, sempre il Polmar. E che adesso sei più forte del radio, cos'è? Quando scalda, perché adesso sei salito ancora di più forte del radio. Se te l'ho detto, quando attacco il linearetto 747, aumenta il segnale, hai visto la Franco, va da 7 a quasi 9,5. Aumenta anche la radio però, capito? Sì, l'ho notato, te l'ho detto io prima, però ancora adesso è aumentata ancora di più, perché prima non eri così, eri a più 8, adesso sei più 12 di dB di cosa, hai guadagnato ancora più forte, cioè la stessa intensità di microfono di quello grosso, del 44. Kappa, ecco già voi ti dico, evidentemente sta scaldando, perché la bomba è ferma sta radio, capito? E non l'ho ancora aperta a dare una pulita dentro, c'è un break, avanti, buonasera. Ciao, aspetta un attimino, ogni volta mi confondo, Gianfranco, Zanditto, Roberto, l'ha detto, Roberto D'Alghero, ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato. Scusa, mi confondo, dai, ok, ben sentito Roberto, dai, questa è un'altra musica comunque di radio, come si chiama, rispetto a quella di prima, sicuramente mi faccio sentire un pochettino più forte, sicuramente chiedo il cambio a Franco di sorso, ha cambiato sicuramente qualcosa. Da quando? Da poco fa? Dalla parte tua, il segnale è cambiato, la radio è un'altra musica. Sì, la radio è sempre quella, diciamo, di sempre. Il segnale è 8, come sempre. Ok, vabbè, tu sei 9,5 qua, con i picchi positivi. E mentre Roberto Di Alghero è quasi 9. Ehi, capo, no, voglio sempre la solita radio tu c'hai, a parte quelle che stavi provando poco fa. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato, Franco da Sosso. Un vintage degli anni 70, un Polmar X7000 base, 220 volts di alimentazione. A quarti, 23 canali più il 22 alfa, quarti, FLL. Non so, vabbè, adesso rilanciamo a Roberto. No, questo è super fenomenale. No, non ci sono problemi, va bene. Ciao, io. E dimmi, fra. Ma vi lascio, vai, che è venuto un amico a provarmi. Ci sentiamo dopo, magari. Ciao a tutti, dai, rimango in quel X. Va bene, dai, già sono qua. Avanti, Roberto. Ciao Franco, ben sentito, siamo qua. Claudio, quando c'è 5.000 io ho trovato nel cassettone, nemmeno me ne ricordavo, me l'ha dato un amico, mio zio me l'aveva dato, un B150, se passi domani te lo provi e vedi se funziona. Sì, non c'è problema. Mi ha regalato uno Gianfranco anche. anche i B300P, devo metterli i fuggibili, è perfettamente funzionante, però ci devo mettere i fuggibili perché quelli che c'erano sono troppo piccoli, capite? Vogliono da 25 ampere. Anche se non ci credo che tira fuori il 150, secondo me ne darà una settantina, sono pure truppi il B150, considerando le dimensioni e l'assorbimento. Un B150 tira fuori 70 watt, quanto è il 747? Forse il 747 le tira fuori di più. Io non ho mai usato, proprio mai in vita mia, però siccome me l'hanno dato per vedere se funziona, dice che funzionava. Abbiamo, non c'è problema. Ma Mudo, se c'è ancora, Claudio. La fiamma a te, Cla. Forse avete parlato in due. Scusate, sto mandigando. Claudio. Anche Brittella, avanti. Cla. Sì. Fiammante o la radio? Cosa? Quella radio, fiammante. Vai, non è Emilio Mondetta, io Luca. Poi mi ha Gianni tutto le puoi dire, però c'ha queste radio vintage dentro una vetrina che è una più nuova dell'altra. Perfetto, guarda, non gli ho fatto niente, ho fatto una pulitina e una lucidatina al cassone, ma non c'ha un graffio. È perfetta, tutta cromata, bella, nuova. Così si tengono le radio, come le tengo io. Non venuta la radio. Dillo a Claudio, quanti anni, sai quanti anni ce l'ho io quella 48 che ti ho portato, Claudio? Quello è il primo che ho comprato, ce l'avrò almeno 7-8 anni, sempre dentro l'armadio, guarda che condizioni è. Perché le radio o le usi e le tratti bene, nel senso che non le graffi, stai attento, perché è inutile avere modestia. Io le mie radio, guarda, sono custodite benissimo. Benissimo, poi Luca lo sai, io sono pignolo in queste cose, no? Claudio. Sì, io. Ciao, è stato anche la porta. Qualche rosso detto Macro c'è per cazzo, da mettere. Guarda, io ne ho uno di rosmetro, però le devo portare lunedì a una persona a fargli rivedere. Se non li vuole, ne ho due veramente. Uno professionale e uno semiprofessionale, dai. Comunque, se non li vuole ti faccio sapere. A me c'è via adesso. Adesso, non te lo posso dare, ce l'ho già l'impegno con lui. Non è che... purtroppo devi aspettare a domani almeno. Adesso non te lo posso dare. A domani mattina? Domani mattina devo andare da lui, devo fargli rivedere. Se le piacciono se ne deve prendere uno, io glieli porto tutti e due. Quello che le piace si prende. Quello che avanza te lo dico, se ti serve, se ti interessa te lo do. Non è roba mia, ma ne andati a vendere. Ok, allora vediamo domani, dai. Sì, perché è stazionario, Tony? Penso di no, ma per il sicuro lo vorrei avere sempre sotto controllo, capito? Sono pensato di che cosa io. Che io ho sempre lo strumento esterno, la T230 che mi fa il commutatore, il rosmetro, il wattmetro, accordatore della Kenwood, le commutazioni a tre le uso, adesso una la sto usando per questo baracchino, questo è un vintage, un Polmar degli anni 70, le altre due linee le uso per il 430 e per il 440. Meglio tenere sempre tutto sotto controllo, Tony, capito? KK. Avanti, Roberto Di Alghero. Il presidente Lincoln, se non va errando, ce l'ha Natalino in vendita, se non l'ha già venduto. Natalici, sì. Provo a chiedergli a vedere. Perché Natalino aveva un presidente Lincoln, che le mancava il microfono. Mi pare che fosse così. Provo a chiedergli a vedere se ce l'ha. Oh, Roberto. Guarda, un supercar, Roberto, ce l'ha il padre di Riccardino. Proprio ieri lo stava dicendo. E il padre di Riccardino, quel ragazzo che è qua, il ragazzino che trasmette qua, non so se adesso si è collegato, lo proviamo a chiamare. Lui c'ha un supercar omologato, tra l'altro, c'ha banda laterale, AM, FM, CW, una radio completa. SSB, credo che sia 40 canali omologato, non so se poi si può ampliare, credo che sia normale, non è modificata. Aspetta, chiamiamo a Riccardino, se c'è il babbo. Attenzione, Riccardo, ci sei? No, comunque già si può recuperare, dai, Riccardo, il padre già lo sentiamo. Proprio ieri l'ha detto, lui voleva fare uno scambio con qualcuno, ha detto se c'è qualcosa di interessante, magari possiamo proporgli qualcosa, o se lo vende, boh. E vabbè, quello lì è omologato, se tu lo vuoi omologare devi andare su 40 canali, ma che non prendi quelli nuovi che hanno la possibilità con i tastini di aprirlo senza modificare niente. E Lincoln non è omologato l'apparato. Ah no, pensavo l'altro giorno, mi sembra mi avevi detto lo volevo l'abbiamo logato, forse ho capito male io, dai. Come non detto, io ho un Mobicom 40 canali, però c'ha tutti i canali, c'ha tutte le bande, quello lì risulta omologato, però può andare sui canali di sopra, quelli di sotto, ci pare c'è a 240 canali se non sbaglio. Hai fatto un cazzo noi dell'omologazione, no? Vero Roberto? Scusa, qua? Non ce ne fotte niente dell'omologazione a noi, cosa me ne frega l'omologazione? Anche Roberto è animatore, c'è cioè, fare una prova. Presidente Lincoln, io ho capito, lo vuoi usare, io l'ho usato in 10 metri, Roberto. Però non il Presidente Lincoln, il Cobra, ma sai quanto esce, uscivo bene? E ho collegato l'antenna da tre elementi monobanda a 28.400, non ha fatto un bel QSO con l'Alta Italia, giusto per provare quel baracchino, escono molto bene in 10 metri. Sette Natalino stasera glielo chiedo, perché lui ce l'ha un Presidente Lincoln, non so se l'ha dato, se l'ha scambiato, non lo so. Avanti Claudio Di Muros. Sì. Va bene. L'Innoit è uguale, io l'ho avuta l'Innoit, ce l'avevo un po' di anni fa, un paio di anni fa, due o tre anni fa, non mi ricordo. L'ho venduta a un collezionista, un collega radioamatore di Sassari. È molto bella, nuova, funzionante. Questa è praticamente la gemella, solo che è nera, le cromature sono uguali, questa forse c'ha qualcosa in più, mi pare il Mickey Gain in più. Il Mickey Gain in più, adesso non mi ricordo se quella là ce l'aveva, non lo so. Comunque poi se fammi sapere stasera se c'ha il Mickey Gain là. E vabbè, domani è lunedì, domani si lavora, quindi possiamo fare tardi il sabato, ma domani è lunedì, quindi stasera non è che mi trattengo molto, però magari se qualcuno dopo cena un'oretta me la faccio, dai. Dipende da cosa c'è la TV. Avanti, Quadrato. Ehi, un bel forte comunque era questa radio, veramente forte. Pulita poi, stranamente non capisco come mai amplifichi anche la voce quando attacchi, stranamente, boh, normalmente un po' ti tagliano le voci, la modulazione questa, addirittura esce anche meglio. Buon per te, dai, meglio così. Domani mi scendo giù anche quell'amplificatorino, dai, mi fai il favore di provarlo, così poi vediamo se interessa a qualcuno fare qualche scambio o qualcosa, dai. Vediamo un pochettino così, quello di Giovanni e poi gli facciamo qualche proposta, quello di Aesu. Io mi siamo sentiti e gli ho detto che domani te lo porto e passare a prenderselo. Però di parlare prima con te, ricordaglielo quello che ti ho detto, quella persona là, capito? Quella persona che ti ho detto. Proponiglielo se vuole di andare, glielo dice e vede un po', capito? Lui gliela può riparare. Si faccia fare il preventivo prima. E poi si è sentito con Fabrizio, mi ha chiamato stamattina, con Fabrizio gli devo dare un po' di quella roba vintage, cioè tutto quel materiale elettronico eccetera, a Fabrizio se gli serve qualcosa, quello che c'aveva in macchina, ma lui ne è pieno di quelle cose. No, ma infatti gli ho detto anch'io, questa roba potrebbe servire a Fabrizio, perché ho visto che ci sono un sacco di cose che lui magari le possono servire, capito? Le possono servire, quindi magari da un'occhiata, ci sono i circuiti stampati interi da tirare via, un bel di roba, cose che possono servire, anziché comprarle ce li hai lì, le metti in una cassetta, magari se le mette in garage da qualche parte, capito? Però ce li ha, anziché buttarle, a me non serve, io non ne faccio riparazioni, lui che fa riparazioni potrebbe essere interessante, una piastra per dire porta Dio, li ho visto, ne ho visto tante, anziché comprarla ce l'hai già pronta, insomma lui poi se la sembra, se la fa come vuole, capito Roberto? E io, ok, facciamo riprendere a Luca, ci sei Luca? Avanti Roberto De Alghero. Ok, va bene Roberto, comunque ti stavo dicendo, com'è il mio segnale di Lia D'Alghero? Funziona questa affare. No, vabbè, c'ha una bellissima modulazione, veramente. Veramente una bella radio. Comunque, già sono contento, dai. Almeno c'è una radio che posso parlare tranquillamente. Poi un 220, capito? Non stai lì a collegare amplificatore di alimentazione, sono l'alimentazione, niente. Infatti per quello lo volevo. Brecchi. Via Giovanni, avanti Giovanni. Oh, cioè, che c'è? E chi siete, si può sapere, a queste ore, diciamo, impensate? Qui stavamo parlando di te, poi Fabrizio l'hai data quella roba? Vi siete messi d'accordo? Non ce l'ha vista, dice, non le interessa. No, chi è venuto proprio qua? No, vuole che le mandi lo schema di quell'apparecchio, di quello che mi deve tornare Claudio. Domani me lo porta in officina, Claudio, poi già te lo do. Ti ho spiegato la situazione, ma cosa può essere? E dice, non lo so, mandami lo schema, voi vediamo un po', se c'è un po' di tempo che lo guardo. Ma non lo so, può darsi che sia una fesseria. Io la prova che mi hai chiesto te l'ho fatta, l'ho attaccata alle mie antenne, non ricevo niente, cosa vuoi ti dica, non mi posso mettere a toccare se non so toccare, capito? E allora è meglio che lo dai a lui, lo attacca al generatore, vede se il segnale di ricezione c'è, se c'è qualche problema. Può darsi pure che io non abbia fatto la prova giusta, non lo so, ma è meglio che lo dai a lui, che tecnicamente è più preparato, c'ha la strumentazione, e io l'ho provato con le mie radio, ho chiamato anche Roberto, un collega radioamatore di Alghero, ma non mi sentiva con quella, con la mia invece mi sentiva, quindi bisogna vedere cosa è successo, non lo so. E allora ti spiego subito, diciamo che riceve, sai perché? Io ho qua un apparecchio, riceve tanto per dire, intendiamoci, forse non riceve da fuori, io ho qua un apparecchio, un portatilino, diciamo palmare, Kenwood, e se io premo la portante in questo qua e lascio, e mi dà segnale di ricezione in quell'apparecchio, me lo dà, come che riceva, e lo sento pure, se mi metto a parlare in questo palmare, sento la voce in quello, no? E quando premo la portante di quello sento la voce in questo palmare qua, quindi diciamo che non ha potenza in uscita, non so che cavolo, che abbiamo fatto qualche manovra sbagliata pure nell'apparecchio, non si sa mai, porca miseria, e cioè da vicino riceve e trasmette in poche parole, poi non lo so, è quello che ti dica. Ok, ci sei, allora c'è Claudio, Roberto e poi... Ha registrato anche il break di Riccardo. Sì, Giovanni, anche a me me lo fa così, anche a me, da vicino, se io schiaccio la portante nella mia radio sento, infatti pensavo che fosse a posto, però in lontananza non trasmette, non va, i punti non ce la fa eccitarli, l'assorbimento è poco, quindi qualcosa c'è da controllare, capito? Non è che sia così da così grave, non lo so, bisogna vedere, dai. Ok, avanti di break. Sì, ok, Roberto. Oh, Ricca, dai. Ti ho sganciato, che intanto non serve a niente lasciare agganciato. Alghero forse già mi ascolta lo stesso, dai. Va bene, va bene. Quindi ciao Riccardo, il cambio allora per Roberto di Alghero, avanti Roberto. Ok, dai, allora faccio girare, avanti Claudio di Muros, avanti. Claudio di Muros, che microfono stai usando? Lo stesso di Claudio, tu, l'MB+5. Però forse devi regolarlo diversamente col microfono. È fortissimo, però Claudio esce più pulito, molto molto più pulito. Io sono Roberto Quadrato e c'è anche Roberto di Alghero. E vabbè, anche qua non è che arriva fortissimo, arrivava a Santiago 8, tendente a 9, sta utilizzando altri tipi di antenne, non sono proprio adatte per questo tipo di frequenza. Dai, quando avrai l'antenna anche tu, tra qualche giorno vedrai che sentirai a tutti e parlerai con tutti. Ok, vediamo Luca Del Monte se c'è ancora. Nulla. Natalino, ci sei? A proposito, Riccardo, che cos'era il superstar che stavate dando voi? Che c'è qualcuno forse può interessare? Ah, un Tornado 34, chissà perché mi è venuto superstar. Tornado 34S, sì. Quanti canali è? Solo 40 o di più ne ha quel? 34S, 34 canali. No, non credo, c'è anche le bande laterali, AM/FM, eccola. Se è 34S io l'ho avuto, mi pare che fosse 34 canali. No, 240 canali, allora è... Allora un altro tipo di radio, dai. Perché ho avuto, ah no, il mio era l'Intec FM500, che era 34 canali, vabbè, già funziona bene quello. Robè, ti può interessare un 240 canali Tornado 34S? Tornado 34S, 240 canali, c'è anche le bande laterali, Riccardo? Sì, qua c'è le bande laterali. Non lo so. Riccardo, lo state vendendo o vi interessa anche una permuta? Ma lui non ti dà un'altra radio, Cosa le dai, Roberto? Ho detto che cosa le dai in cambio? Quanti pollici è però quella che è imballata? Ho capito. Chiedi a Babbo, Riccardo, in cambio ti dà un televisore imballato da 25 pollici. Addirittura c'è anche del polversato. Ma intendo io, vabbè, spiega il tubo. Quindi normalmente minimo sono 24 pollici, perché meno 24 è un LCD, mi immagino sicuramente. HDMI, cos'è, smart TV o cosa normale? Cioè diciamo se dopo, se c'erano non più di 4 anni, sicuramente uno smart TV. Cosa interessante, dai, poi vediamo un pochettino se può trovare qualche altra soluzione, dai, vediamo un pochettino. Ok, Riccardino, hai capito la situazione, lui c'ha un LCD della LG, addirittura con qualcosa, con del condensato incorporato, quella è una cosa interessante, eccetera eccetera. Vorrebbe fare scambio eventualmente col tuo Tornado era il 34S, così. Cercalo su internet, Roberto, non è male quell'apparecchio, mi sembra che assomiglia al Typhoon come tipo di apparecchio nero, perché io ne ho un altro di coso simile a quello lì di Baracchino, abbastanza simile, però non è 240 canali. Ok, vediamo se Muros c'è ancora. Avanti Claudio e date il mic. Non ho capito di cosa stiamo parlando. Allora, Roberto di Alghero sta cercando un baracchino, anziché utilizzare altri tipi di radio, uno così più comodo, eccetera, già canalizzato, eccetera. Gli è stato proposto da Riccardino, ci hanno un Tornado 34S 240 canali, e lui gli sta proponendo o uno scambio, eventualmente in soldi, in denaro, dai, vediamo un po' cosa si può fare, si mettono d'accordo, è esattamente il tipo del modello, dell'LG, comunque è già un apparato abbastanza moderno, dice l'ha preso da poco, ancora sigillato, e vediamo un pochettino. Okay. in direttiva, Riccardo. Avanti Roberto. Sì, ma il minimo sono 24 pollici, infatti immaginavo era oltre 24 pollici sicuramente. Ok, può essere una buona condizione se sono d'accordo loro a farlo, se non mi propongo io, eventualmente se ti interessa il Mobicon che ho io, che ho prestato a Giovanni, che io ho una televisione di scorta, fa sempre comodo averla. Anche questo qua, Mobicon, è 240 canali. Allora, quello che sto dicendo io, scusa Riccardi, è Mobicom MB40, c'è la Giovanni in diretta, se lo vuoi sentire Giovanni avanti, prova a parlare. Io capo, però dopo faccio correttivo perché c'ho da lavorare. Ok, diciamo, non copio comunque l'amico di Alghero, Riccardino quasi a livello di QRM, e l'amico di Muro, diciamo, non è che lo copio bene come lo copiavo una volta, chissà perché, non lo capire. Ok, vi rilancio il micro, poi chiudo. Ciao Giovanni, ben sentito. Domani Claudio mi porta con l'apparecchio, poi faccio in officina e te lo rendo. Ok, l'hai sentito il coso, l'MB40 della Mobicon, Roberto? Allora, Mobicom MB40, e Mike Bravo 40, e c'ha il frequenzimetro e c'ha i canali, l'indicatore dei canali, rispetto al Tornado che non ha il frequenzimetro, quello c'ha i cristalli liquidi display. No, c'ha i canali, c'ha le bande, c'ha le 5 bande quello. Tu vuoi qualcosa di diverso, non c'ha niente a vedere come apparato con la serie President, nel Tornado né tantomeno il Mobicom, sono apparati diciamo per fare cose diverse, dai. Il President sono un pochettino più potenti diciamo come modulazione. Allora il Mobicom ci deve abbinare un bel microfono, stavo utilizzando un microfono da palmo, tieni presente Giovanni, niente di più, magari se le abbini un microfono tipo un MB più 4, più 5, più 9 eccetera, va molto meglio, spinge molto di più. Io qua l'ascolto perfettamente, la radio era chiara, vabbè siamo attaccati vicino, probabilmente a lunghe distanze perde tanto. Eventualmente se interessa il discorso ci possiamo mettere d'accordo, se no prima con Riccardo che ha la precedenza. Ho capito quasi tutti i giorni? Ok, in ogni caso il mio numero ce l'ha Claudio, se c'è tu quello di Claudio si può scambiare eventualmente se c'hai intenzione di fare qualcosa, dai, sia con me, anzi sia prima con Riccardo o eventualmente con me, perché tanto io quell'apparecchio non lo sto usando, l'ho dato a lui, ce n'ho altri di baracchini, però non mi interessa darli, me li tengo delle stazioni base, altri quattro, tra cui due Intec base, uno l'ho provato poco fa e poi c'ho il Multicom che è il migliore che c'ho. Vabbè, puoi chiederlo a qualunque di Alghero e non c'è problema, ce l'hanno il mio numero, vabbè. In ogni caso se vi mettete d'accordo poi ti passo quello di Roberto, capito? Chiedilo di Alghero, già ce l'hanno, ce l'ha Fanni, ce l'ha un bel di gente. Ce l'avrà anche Angelino, così Claudio, Angelino ce l'ha il tuo. Claudio. Sì, ce l'ha anche Angelino, certo. Hai sentito Roberto, ce l'ha anche Angelino, se lo conosci quello di Alghero. No, non è un radioamatore, è un CB, sta nella zona aeroporto, dai, lì, c'è un terreno lì, molto spesso entra qua in frequenza. Ho detto eventualmente se vuoi avere il numero di Claudio tramite Angelino oppure quelle persone che ti ha detto Claudio e quegli altri radioamatori eccetera eccetera. Ok, ti è presente, la precedenza ce l'ha Riccardo, il padre di Riccardo, perché questo discorso è stato partito con lui. Poi eventualmente se non interessa a lui il discorso può interessare a me. Certo, io ho quel mobile, quando addirittura ho anche due microfoni, uno un M93 amplificato, abbinato e più c'è il suo originale. Io sono a disposizione, dai, non c'è problema. Avanti Claudio da Muro, se vediamo un po', dai. È un muro da battaglia, un muro da combattimento, cioè tutto ferro, robusto, tracadente, no, non è come molti baracchini che pigliano un colpettino, poi sono fatti apposta per lavorare con continuità, non saranno belli a vedersi, a parte magari quelli modificati con l'illuminazione, cioè, però sono baracchini eterni, cioè tu li trovi di 40 anni fa e stanno sempre andando, sono sempre efficienti, anche tutti i commutatori, il cambio canali, per dire, è un po' brutto, scomodo da usare il cambio canale, però è eterno quel commutato. Questo è Precision Series, quello che ho io, non so di che anno è, se prima o seconda serie, io ce l'ho dal 2004, questo baracchino, dal 2005 l'aveva comprato una settimana prima. Ma tu hai illuminato le robe? Cosa vuol dire illuminato? Certo che illuminato, di che colore intendi tu? C'è lui, c'ha tutti i pulsanti illuminato, cioè si illumina tutto, capito? Illuminato, il tuo, le luci ci sono, o non è a luci, nello squelch, nel volume? No, no, è tutto illuminato, tutti i tasti, il volume, le cose sono tutte illuminate, una specie di giallino è illuminato, è Precision Series, l'esatto modello di quello lì, ma è nuovo, il mio è fiammante, cioè, me l'ha dato, l'avevo una settimana nella macchina, è come che stia uscendo dal negozio, c'ho il microfono suo ancora, non dico in celofanato, ma quasi. E il microfono non l'ho mai usato, perché usavo sempre il MB5, quello che ha dato a Claudio è nuovo, nuovo, c'ha la staffa, c'ha tutto, nuovo, nuovo, non lo usavo perché prendo troppi colpi, capito? Allora non lo stavo usando per quello, però è nuovo, nuovo, tranquillo che è nuovo, nuovo, anche quello lì, è tutto illuminato, no? Quello lì io l'avevo preso forse nel 2015, una cosa del genere, 2015 forse, e mi aveva fatto pagare 160 euro alla GBC, avanti voi 200. Adesso facciamo riprendere un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno o se no riprende Riccardino. Avanti su 10. Lo vedo qua, ciao a tutti. E c'è Tonino Cavaggian che scusa Tonino, un secondo, vabbè, arrivo subito, vado a prendermi il telefono. Ciao Tonino, ben sentito, vediamo se tu ascolti a Riccardo, ascolti a Riccardino Tonino. Sì, è Riccardo sì che non ascolta, arrivo a fondo scala. Ti arriva a fondo scala Riccardo? Sì, forte. Allora, sono contento, dai. Avanti Riccardo, non rispassare lo smitter a Tonino. Cazzo Riccardino, ciao, ben sentito, non fa nessuno. Ma Robby, tu non è che per caso hai qualche stazione fissa da vendere? No, no, non la vendo, io sono innamorato delle stazioni, a me non piacciono i baracchini, ne ho, non dico decine, ma ne avrò 7-8, ma non mi piacciono. C'ho fisse, ne ho 4, e le uso 4 ma le tengo. L'unico che non utilizzo è Royce, diciamo ce l'ho, lo accendo, ma non mi piace di modulazione. Poi il microfono è molto cupo. Quelli che utilizzo è il Patch, l'81-93, che è un bel l'apparato, c'è anche le bande laterali, ma riprende un po' di curvi perché quando sono segnali troppo forti satura. E poi ho due intake, un multicom, che quello è una bomba, è meglio del 140 come ricezione, silenziosità e selettività, è molto meglio del 140. E poi c'ho un altro intake base, il 3104, che l'ho usato poco fa, quello lì c'ha lo stesso Roger Beep, ecco, regolatore di potenza, eccetera eccetera, però il migliore che ho è, vabbè, un apparato molto recente, quello della intake multicom. Tu lo stai cercando, che barattolo lo stai cercando? Ma una stazione fissa perché è più carino, dai, è un mobile, io ce lo faccio 2030, se lo conosci, è da battaglia, ma Splatter non è più, vabbè, dovrebbe essere, non c'è nessuno qui. Ma per dirti, una stazione fissa, ho fatto un bel mobiletto per camera, ci ho messo, guarda, 3 giorni, ti dico il perché, 3 giorni, a parte con dolore di rene nel disco, mi fermavo e dolori nel dietro, dovevo sedermi. Quindi l'ho fatto, ho detto fretta, non le ho, piano, e oggi mi ci sono messo e l'ho finito. E poi l'ho fatto anche per lo scompartimento, proprio anche per una bella stazione fissa che ci sta benissimo, con microfono da tavolo. Quindi che ci sia, però importa che non sia solo 40 canali. Stazione che devi prendere lo Saturn Echo, se vuoi canali più, questo multicom, che questo con la tastiera prima di accendere schiacci due tasti diventa da 26 a 32, mi sembra che sale, cioè avrà 2000 canali, non lo so quanto arriva a 1000 canali, perché, ed è un apparato omologato, però è eccezionale, tutto di nuova generazione, non c'ha niente a che vedere con i baracchini, quelli di quelli tipo alla 48 e cose così, ed è un apparato di nuova, l'unica cosa in trasmissione non è un granché, è solo Truvi, è un grandissimo apparato perché c'ha tutto, non gli manca niente, tutte le funzioni possibili e immaginabili, è un po' cupo di modulazione, ci deve abbinare un bel microfono perché è un po' strozzata la modulazione, per il resto, ti ripeto, in ricezione è meglio del 140, confrontate tutti e due, molto meno rumoroso, più selettivo, non prende sblatte, non prende disturbi, niente, è un bellissimo, e poi di grandezza un pochettino più grande del 140, è un po' più basso, è tutto digitale, non ha nessun problema come apparato. Se trovi quello fai un turno all'otto, se no devi andare con apparati più vecchi tipo il Saturn Echo, il Colt Excalibur, Petrus, Lafayette eccetera eccetera, però devi stare molto molto attento perché sono apparati che hanno già 40 anni, per cui se sono stati toccati, la maggior parte sono stati toccati e ti danno solo problemi. E boh, ok, facciamo riprendere di nuovo a Roberto Di Alghero e vediamo un po' qualche commento anche da parte sua. Io ho il multicom, vabbè, stiamo parlando del mobicom, quello l'MB40 di un veicolare, non c'ha niente a che vedere, però il top della Intec che si chiama multicom ed è un apparato, sembra un HF, sia come funzioni che non è un sintonia continua, però c'ha 1000 canali, non so quanti ne ha, perché parte da 26, 25, 6 o 25, 8, arriva sino a 32, naturalmente devi entrare nel menu perché c'ha una tastiera, prima di accendere devi toccare due tasti e poi c'ha tutte le bande, non mi ricordo fino a dove arrivano, poi c'ha il modulometro incorporato, è una stazione bella, cercalo su internet che multicom, anche se mai in fotografia non rende, però è pochettino più largo del 440, è appena più basso, però ti ripeto, in ricezione non ce n'è, baracchini non ne ho ancora sentito, ne ho provato decine a livello di quello lì, come ricezione, di trasmissione il limite è la trasmissione, io non l'ho modificato, l'ho lasciato tutto originale, perché trasmissione è molto strozzato, molto stretto, per cui o ci metti un microfono di quelli tipo lo Turner o cose del genere che spingono, se no è molto molto cupo. No, multicom 497 il modello. Lo cercano, guarda, proprio avanti ieri me l'hanno cercato, un radioamatore mi ha chiesto quello lì e poi mi ha chiesto l'antenna, la multigamma, se glieli vendevo, ho detto no, lasciali stare, non so cosa se ne possa fare un radioamatore di quel baracchino lì, a meno che non lo usi nei 10 metri o faccia qualcosa, non lo so, però ti ripeto è completo, non gli manca niente, qualunque funzione di un baracchino ce li ha quello lì, però è voluto, baracchino è voluto, meglio di quello c'è solo Superstar 4009, ma quello è di un altro pianeta che io penso che in Italia non sia mai entrato perché non l'ho mai visto, quello è in assoluto il miglior baracchino che c'è in circolazione, nel Superstar 4009. Vediamo se c'è ancora Muro su avanti. Ciao, sentito anche per Gigi, ti ascolto, 7.5 anche tu arrivi, io sono la nostra sede, sono in campagna, sto usando anche un apparato da 13. Ok, bene Meda, comunque niente, Roberto, ti dicevo, sì, ha avuto anche il Galaxy, ha avuto tempo fa, è un signor Paracchino, era. E niente, si trovo a televisione perché mi sono fatto qua un posto nel mobile che è 90x40 mi sembra, lo spazio che ho. Ho fatto un mobiletto abbastanza matodotico perciò c'è un sacco di cianfrusaglie, insomma di attrezzatura piccola, e non sono dove mettere, ho detto, mi faccio questo mobiletto così, saldatore eccetera, capito? E ho precisato. Tutto qui, comunque, niente, non cerchiamo, se lo troviamo ce lo sacchiamo qua dentro e niente, voi dica. Sì, così non hai problemi di alimentatori e seni, di eccetera, di ronzie, malassorte, dai, meglio. Io per quello che piacciono le stazioni base, naturalmente efficienti, non bidugno, perché ci sono tante radio, soprattutto quando sono vecchie, per tirarne qualche volta in più iniziavano a manopetterle, a creare problemi e poi ti danno un sacco di problemi, di ronzie, di splatter, eccetera. Diciamo, con le radio devono dare 5 watt e 5 watt devono rimanere inutile, fanno tirare qualche watt in più e tanto non cambia niente. Ok, Saturn Echo, grande radio in trasmissione, ricezione non è un granché, però è un grande scatolone scenografico eccetera. Poi hanno fatto il Saturn Echo Turbo DX, ce ne sono tante versioni, hanno fatto un aggiornato con tante funzioni in più, più scenografico, però tu lo apri, Saturn Echo e bioduce, è come il coso, il Pluto, i Galaxy Pluto sono uguali, solo ci hanno messo un alimentatore, le stesse funzioni e niente altro di più, però è bello a vedersi, fa una bella scena perché è molto grande. Ok, vediamo a Riccardino se c'è ancora, ci facciamo dare il passare il mic, avanti Riccardo. Meno emozionato, dai, più lento, più vicino al microfono lo tieni alla bocca in modo che la voce aumenti, lentamente, un discorso, le parole devono essere chiare e lente, in modo che si possano capire, soprattutto con i DX, perché quando fai il DX c'è QRM, la gente poi non ti capisce da lontano, passaggi brevi però chiari, capito? Perché c'è qualcuno magari non riesce a capire, parli troppo veloce e non si capisce, io sono veloce di natura, ma tu mi fai 10-0, parla piano e le parole cerca di scandirle in modo che si capiscano, non tanto per noi, ma quando fai collegamenti con quelli un po' più lontani. Ok, avanti Roberto di Alghero, se ci sei ancora. No, io l'ho eventualmente, mi è venuta adesso l'idea, non ci stavo neanche pensando perché l'ho dato a Giovanni Bracco, un altro radioamatore, lo sta usando lui, l'Intec Mobicom MB40, ed è un veicolare con 40 canali allargati, nel senso c'ha 6 o 7 bande, adesso non mi ricordo, c'ha 240 canali e c'ha il frequenzima, diciamo la versione povera di quello che ti stavo dicendo, del Multicom 497, la versione povera limitata, diciamo, ridotta a veicolare, però c'ha, diciamo, non avrà gli strumenti che c'ha quello lì, non ha, però c'è il frequenzino, il cambio canali, c'ha MFM SSB e più c'ha il, aspetta, SSB lo sai, non me lo ricordo se ce l'ha, non sono sicuro di quello, e più c'ha il coso, le altre funzioni, le solite funzioni che c'hanno tutti i baracchini, in più c'ha solo il frequenzimetro rispetto al coso, al tornado di Riccardo. K, sono rientrato adesso, dai. Ok, va bene, va bene. E Tony, questo è degli anni 70, il baracchino, è un Polmar 7000X o X7000 degli anni 70, c'ha solo la M, figurati, però come vedi si fa sentire, c'ha 5 watt, quasi 8 modulati, va bene, senti che radio che ha, è ottimo per la truppa, dai. Beh, ma 40 canali, cosa fai? Cosa fai di X oltre i 40? Fai un bel... Ma guarda, manca il radio, non può fare di X, a parte il fatto che non è una funzione da mai fare di X, il 27, se lo fai i collegamenti me ne vado in banda amatoriale, non è quello il problema, c'ho le antenne sul tetto, le direttive sul tetto, quindi cosa me ne affutti, c'ho un po' di antenne di oltre 2000 euro sul tetto, c'ho gli HF per fare i collegamenti, il 27 non ha mai fatto, io non me ne affutti nulla, questo è giusto per...